gar ormai dei femminati sensi. Chi sei? Che parli? Che vuoi tu? Che pensi? Di tua gloria, custode, ti stimolo a seguirla. Ergi il tuo cuore alle grand'opre. Me lo tolse amore. E lo renda il valor. Languisci in te. Scherno, esser voi d'un vile pargoletto. Voti e di gloria al tempio.